presento come Onizuka P.A.C.R. Crackfish, 16 anni, rapper meranese. Siete tutti invitati, il mio viaggio è gratuito. Questo è uno street album senza circuito. Ci trovi verità, voglio amore, impegno. Non mi vuoi ascoltare? Da solo non mi spengo, la mia storia racconto dall'alba al tramonto. Traccia dopo traccia, te ne renderai conto. Non ancora mi conosce, neanche dopo la fine. Saprai spiegarti alcune frasi, alcuni modi di agire. Dei miei testi sono lievi come petali di giglio, alti brutali, pungenti come uno spillo. Con la cattiveria affronto anche la cronaca nera, dando forza a chi combatte il nostro mondo di miseria. Continua ad ascoltare, ascoltare, ho detto. Le mie storie sono forti come un pugno diretto. Piacere più di un significato, morte dolorosa nella rugia di anno. Piacere, la mia vita ti ho illustrato, morte dolorosa nella rugia di anno. Sono un rapper solitario, potrebbe essere un diario. Prima traccia del mio album illumina lo scenario. Osserva la luna, con me non porta fortuna, morte dolorosa nella rugia di anno. Amico di tutti, fidarsi di pochi, usa le tue forze per raggiungere i tuoi scopi. Credi in te stesso, chi davvero ti è vicino potrà farti da spalla se c'è un legame a doppio filo. La mia famiglia venero più di ogni altra cosa, siamo grandi e sparpagliati come petali di rosa. La mom, the pie, nonni, gli zii, tutti ringrazio per ciò che fanno anche in tempi brutti. Ho la mia crew, la CCB da più di un anno, anche se in pochi andiamo avanti senza affanno. I miei amici che ci passo le giornate a divertirmi, meglio detto a fare cazzate. Finisco questa strofa col citare una persona Doberman MC, un cane senza padrona. No scherzo, lui è il mio migliore amico. Da 11 anni lo conosco, dal mio cuore mai svanito. Piacere più di un significato, morte dolorosa nella rugia da notte. Piacere, la mia vita ti ha illustrato, morte dolorosa nella rugia da notte. Sono un rapper solitario, potrebbe essere un diario. Prima traccia del mio album illumina lo scenario. Osserva la luna, con me non porta fortuna, morte dolorosa nella rugia da notturna. P A C R E. Nella nostra strana vita vive solo chi si arrangia. Se amo una persona è perché questa ricambia. Mi contraddico ma sono questi fatti. Stringi un rapporto e saprai di chi fidarti. La vita è una sola, impegnati al massimo. Sbrigati, non lasciare che gli anni passino. Non puoi sapere cosa per te serve il destino. Prendi il tuo obiettivo e raggiungilo per primo. Piacere più di un significato, morte dolorosa nella rugia d'anno. Illustrato.